finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Come vi abbiamo annunciato già da un po' di settimane, riprendiamo con questo mercoledì un filo che avevamo imbastito e che proprio come un vecchio blues continua. Continua senza fermarsi, prendendosi tutti i tempi necessari con la lentezza giusta. E già nella scorsa stagione per due volte avevamo affrontato la biografia di B.B. King insieme a Big Max e a Blues Night, Blues Power, a seconda di come la vogliamo intendere, insomma, vecchi compagni della radio. E quindi questa sera riprendiamo appunto quel filo imbastito. Ricordiamo nel frattempo che Radio Onda Rossa vive dal 1977 libera nell'etere grazie a quello che è il vostro sostegno, al vostro contributo. Contributo che avviene in ogni termine e modo. Contributo di informazioni, di idee, di partecipazione, ma non ultimo anche contributo venalmente pecuniario che ci fate pervenire attraverso i vari strumenti a disposizione vostra e nostra. Cioè, riguardo a questo c'è una paginetta sul sito www.ondarossa.info, andando a cliccare su sostieni. Ci sta scritto tutto. Oppure ci sta il due modi estremamente semplici e robusti, come dire, quello di venire qua negli studi della radio, che più o meno è presidiata tutti i giorni dai compagni e le compagne redattori e redattrici, alle 8:30, 9 della mattina, dalle 8 ufficialmente, diciamo, da quando inizia la rassegna stampa, fino alle 20 di sera. Oppure con il vecchio numero del conto corrente postale 6180 4001, conto corrente postale da intestare a Cooperativa Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00185, Roma, Sallollo. È ritornato ormai da un paio di settimane in funzione lo storico numero della radio 06491750, perciò illuminate di rosso la radio più, la redazione della radio più rossa che c'è. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni. 25 o'clock 25 scritto a numero. @ondarossa.info invece per insultare il sottoscritto. Ed eccoci quindi. In allora, diretta, sì. Ci sono? A voglia. Allora, egregio professore, io spero che l'appellativo vecchio compagno non si riferisca alla mia età anagrafica. Alla nostra. Alla, sì, forse alla sua, essendo professore, si sa, sono abbastanza attempati i nostri docenti, è difficile che li mandiamo in pensione. Io comunque sì, è stato un giovane compagno della radio, magari vecchio perché per qualche mese l'ho frequentata qualche tempo fa. Dicevi, abbiamo dipanato un filo intorno al blues, intorno alla. Sì, sì, sì. Il problema è che il filo se n'è andato per conto suo, come fosse in preda a un gatto. No, come la migliore improvvisazione. Che giocavo con il rocchetto, perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che noi siamo partiti veramente tronfi nel cercare di raccontare la vita di B.B. King, ma presto ci siamo sbragati e ci siamo resi conto che, visto che B.B. King attraversa quasi per intero il XX secolo, è un po' difficile raccontare una vita, insomma. Sì, pare brutto raccontare, fermarsi a B.B. King, quando comunque la sua vita, la sua carriera, la sua musica si intreccia con la musica, la vita, la carriera di decine, centinaia di personaggi, uomini e donne, che hanno fatto il blues. E quindi, visto che noi ci piace poco andare per schemi rigidi, ci siamo presto sbragati. E quando abbiamo tentato di fare qualcosa di organico, quanto è durato? 25 minuti, dopo che oggi siamo alla terza puntata, in quanto tempo? Abbiamo messo un anno? Sì, e poi tra l'altro dicendo pure, sì, beh, terza in tre puntate concludiamo, sì, poi diventano quattro, poi diventano cinque, poi diventano sei. Non, insomma, mettiamo limiti, tra l'altro non sapremo neanche se ne faremo un'altra. Io non vorrei aver fatto l'errore di averti detto che andremo in onda anche la prossima settimana. No, è indicativo. Una settimana larga potrebbe essere. Una prossima settimana entro un dato tempo. Sì, vedremo. Fra l'altro, ecco, ci tengo a dire che questa volta abbiamo perso quasi una quarto d'ora a prepararci la trasmissione, con il professore, quindi potrebbe succedere. Sì, è vero tutto. Che abbiamo perso un'ora per fare una traduzione di 3 minuti da un video su YouTube che invece era sbagliato. Dico sì, io già l'ho dimenticata questa cosa, sì. L'ho rimossa, io spero che non sia vero. Molto bella. I fischi che sento non vengono dal pubblico, è una cosa normalissima. No, è un normale effetto Larsen che succede quando uno alza troppo. Se si evita, magari sì. No, non si evita. Sì, così, perché già sono leggermente sordo. Così adesso è bello, è continuo il fischio, sì, molto meglio. Bene. Allora, come tecnico non ci sono rivali. Adesso si sente addirittura bene. Sì. Allora, signore e signori, ora vi toccherà un'oretta insieme a noi, insieme a quello, al nostro blues. Vai, andiamo a cominciare. Mississippi, perfino tra noi poveri mezzadri, si poteva quasi toccare con mano l'ottimismo che animava l'America postbellica. Anch'io volevo provare quell'ottimismo, anch'io volevo credere che le cose stessero migliorando, che la vittoria riportata in guerra dalla nazione significasse vittoria per tutti. E se il mio ottimismo non poteva essere giustificato dalle mie condizioni economiche, non certo floride, perlomeno potevo percepire ottimismo nella gioiosa musica di Louis Jordan, in Flying Home di Lionel Hampton e nel concerto intitolato Jazz at the Philharmonics, al quale avevano preso parte Nat King Cole, Illinois Jacquet e un incredibile chitarrista bianco di nome Les Paul, che presto avrebbe rimodernato la chitarra elettrica. Le mie orecchie erano bene aperte, pronte a cogliere i suggerimenti provenienti persino dai bebopper quali Charlie Parker di Ziggy Gillespie, la cui Back Home Blues mi sembrava bella e grintosa come qualsiasi brano di Muddy Waters. Thank you. E questo era il vibrafono di Lionel Hampton in questa Flying Home che abbiamo sentito nominare dalle parole di B.B. King. E insomma sembrano veramente lontani i Blue Devils, i Diavoli Tristi. La frase del Blue Devils, almeno secondo le leggende più accreditate, la narrazione più accreditata, sembra che sia quelle parole dalle quali è nata, abbreviandole, la parola blues. To have the Blue Devils, avere i Diavoli Tristi. Siamo ben lontani, abbiamo ascoltato dalle canzoni pallose dei negri, come direbbe qualche compagno nostro degli anni venti, dei campi di cotone. E dopo esserci ascoltati Lionel Hampton, abbiamo visto B.B. King nominare anche Louis Jordan. Da Louis Jordan B.B. King prenderà gran parte del suo stile, prenderà il modo in cui lui esegue le sue note, lo stirare le note proprio di B.B. King, questo modo di suonare che fa di B.B. King una persona riconoscibile nella sua musica fin dalle primissime battute. E noi abbiamo piacere ad ascoltarcelo, Louis Jordan. Abbiamo scelto un brano, in particolare Caldonia, che è un brano che B.B. King eseguiva spesso e volentieri nei suoi concerti, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare. E dopo a ruota ci ascolteremo un'intervista brevissima di 3 minuti fatta a B.B. King, dove spiega e racconta cosa ha significato per lui Louis Jordan e qual è stata l'influenza di Louis Jordan, che vi ho riassunto in poche parole per quanto riguarda la sua musica. foreign players through the years too, and I know that Louis Jordan was an influence on you. Mm. Talk a little bit about him. Yes. I think what I learned from Louis Jordan, you hear quite often. It just, Louis had a thing going. Let's see. Okay. With his horn. Oh, again. So that's the way he was phrased on his horn. Mm. So I got started doing it with the guitar because it seemed to, it's the only way I could hear things. So I would start again. I still hear the alto. I'm still hearing the horn. So that's what I hear from him. And I guess that's a big part of, because when I try to phrase like that, I can still hear, you know, it's not so staccato like well, the guitar's supposed to be, you know. Well, I don't hear it like that. I hear sustaining, kind of lingering on. You have to show us that bend there. Okay. All right, to go. So you're actually bending a minor third from the D to the F. I guess it is. That's what it is. It's incredible. Mm-hmm. So I might hear that last part, that when I hit that, what am I hitting here? Oh, the that A again. Mm-hmm. And the A right. Up to the B again. Oh, A up to the B, right. I've never sat down and thought about it as we are talking, so it's just something I hear. Yeah. To me, it resolved back there. Louis Jordan, to me, was a superb musician, and the one thing that I got mostly from him was the phrasing, the way I showed you just a few minutes ago. I can still hear his horn. Avrete ascoltato e capito questa intervista a B.B. King meglio di quanto l'abbiamo compresa io e Stefano, che ce la siamo rivista parecchie volte. Alla quarta volta forse ho cominciato a capire quello che dice. C'è compiutamente che una volta avuta l'età della ragione, io e il professore siamo stati messi di fronte a una scelta: o seguire un corso di inglese ad Oxford o comprarsi la PlayStation. Immaginate qual è. Sì, nessuna delle due. Sì. Alla fine si è conclusa in un partitone di calcetto in campi improbabili. E comunque il succo dell'intervista, e che poi si esprime anche nelle ultime parole che dice B.B. King, a me sembra ancora di sentirlo suonare. Louis Jordan è stato un musicista superbo, da lui ho imparato questo modo di tirare le note, di far passare del tempo tra una nota e l'altra. Avresti potuto suonare le note una dietro l'altra, ne fa l'esempio, e invece noi da lui ho imparato a suonare in questa maniera, stirando le note, riuscendo a far passare la stessa nota di due, quasi di un'ottava, insomma, da un do a un semplicemente a un mi, a un fa. Stirando tecnicamente le corde della chitarra, usando delle tecniche molto particolari di vibrato e di sostegno, diciamo, della nota stessa. Sì, è un bel pezzo questo che potete trovare facilmente sul web. Questa è stata ascoltata in sottofondo, che poi vi mettiamo da capo, è Caldonia, la stessa che abbiamo ascoltato a Louis Jordan, questa volta però nella versione di B.B. King, così anche per assaporare differenze e affinità e divergenze. Affinità. E vi voglio tradurre il testo, sempre preso col beneficio dell'inventario. Questo è un testo indicativo, diciamo, può essere preso ad esempio di qualsiasi testo blues. Walk with my baby, cammino con la mia ragazza, lei ha grandi piedi, è lunga, alta, lampanata e non ha niente da mangiare. She's my baby, I love her just the same, è la mia ragazza, l'amo comunque, e io sono pazzo di lei, il suo nome è Caldonia. Caldonia, perché la tua grande testa è così dura? Ti amo comunque, sono pazzo di questa donna, il suo nome è Caldonia. E poi entra una voce in sottofondo, perché lui nel testo dice: sai una cosa? E qualcuno gli risponde: che cosa? My mother told me. Questa è una frase che nel blues si ripresenta milioni di volte, è emblematica. Mia madre mi disse che dovevo lasciare questa ragazza, e la voce gli diceva: io penso che lei sia una brava ragazza, non ho niente contro di voi. Sì, non ho dubbi, caro mio ragazzo, ma mia madre non vuole capire. Lei è una brava ragazza e io sono contento di stare con lei. Adesso andrò a chiamarla un'altra volta. Tu pensi che mi ascolterà? Oh sì, lei ti ascolterà. E così va avanti la canzone. E adesso noi ce la riascoltiamo da capo, suona la B.B. King. Prego, professore. Questa qui era Caldonia, io non so voi, ma noi qui ce la stiamo ballando tutta, e in più sono contento che con la vecchiaia sono diventato anche più saggio e ho portato due birre invece che una. E questa prima è già finita, caro. Da quello si deduce la saggezza? Il metro della saggezza. Sì, direi, okay. Direi che possa. La bastare. Misura che potete utilizzare tutti, insomma. Sì. Ho sentito l'inizio della trasmissione che hai dato spazio ai compagni che hanno parlato per un'ora di come vomitano dopo che sono ubriachi. Noi non arriviamo a questi livelli. Posso dire che quando sono ubriaco vomito per un'ora. Comunque noi, per non farci mancare niente e per ritornare alle atmosfere della dopoguerra e sottolinearle ulteriormente, ci siamo andati a cercare questo brano nominato da B.B. King, tratto da questo concerto Jazz at the Philharmonic. Adesso i concerti nominati Jazz at the Philharmonic ce ne sono almeno un paio l'anno, forse non di più, ne potete trovare diversi. Noi abbiamo scelto proprio quello che ci interessava, che è registrato alla Philharmonic Auditorium, naturalmente Los Angeles, siamo nel luglio del 1944, e abbiamo trovato proprio quello dove ci sarà Les Paul alla chitarra, una registrazione vecchissima, si sente come vi accorgerete, e abbiamo J.J. Johnson al trombone, Linus Jacket al sax tenore, Nat King Cole al pianoforte e Les Paul alla chitarra. Da notare che Les Paul appare in questo concerto chiamato solo all'ultimo momento per sostituire Oscar Moore, e noi non ci resta che ascoltarcelo. Hard to ever use any of the frets up here, because most of us didn't know in the beginning how to make a bar. So you made your own bar by going out getting a piece of wood or pencil or something and laying it across them. And we still kept this old formation in. So it was later years when my first book. Mm-hmm.

Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza insieme a Blues Power, sempre con il sottofondo e con il proposito di andare a fondo sulla autobiografia di B.B. King. E puoi star sicuro che affondiamo sul serio questa volta, caro professore. Spero avrete apprezzato la chitarra di Les Paul, veramente straordinaria. D'altronde non c'è da stupirsi se la Gibson decise di dedicare al suo nome una delle serie delle sue chitarre. Muddy Waters era forse il più importante e significativo di tutti i bluesmen venuti fuori dal Mississippi. Certo, John Lee Hooker è assolutamente unico e rimane a tutt'oggi uno dei più grandi poeti del blues, ma Muddy divenne una specie di figura paterna per intere generazioni di musicisti neri e bianchi. Muddy divenne un'istituzione, ecco cosa. Mi è sempre piaciuto tutto di Muddy: il suo modo di cantare, il suo modo di comporre, il suo stile alla chitarra. A Indianola sapevamo che se n'era andato a Chicago, dove aveva fondato una vera e propria scuola. Alcuni si erano recati nel Southside prima di lui e altri vi si recarono dopo, nomi come Big Bill Bronzy, Memphis Slim, Memphis Minnie, Big Maceo, Little Walter, Olin Wolf, Junior Parker e decine d'altri. Nessuno di loro ebbe però mai la stessa autorevolezza di Muddy. Fu lui il vero boss di Chicago e la ragione per la quale alcuni affermano che è Chicago la culla del blues. Ero messo in grande fermento da tutta questa musica, dal vedere gente che si trasferiva in altre città e da tutti quei ritmi diversi che riflettevano i cambiamenti che avvenivano nelle persone. Però non mi sentii mai attirato dalla città del vento. Ero già stato nel paradiso del blues e non si chiamava Chicago. Dicono che d'inverno a Chicago tiri un vento tanto gelido da portarti via la pelle dalla faccia, ma io ne facevo volentieri a meno, così come del freddo e della neve. Il mio cuore anelava a un'unica meta: centralino, per favore, mi passi Memphis, Tennessee. E noi, quello che ci stiamo ascoltando in sottofondo è appunto Muddy Waters. L'abbiamo preso in un concerto registrato nel 1974 al Montreux Jazz Festival. L'abbiamo preso in una formazione straordinaria e insieme a Muddy Waters suona infatti Buddy Guy, Junior Wells, che è probabilmente il mio armonicista preferito, Bill Wyman, che faceva parte dell'antica formazione dei Rolling Stones, e diversi altri. E noi adesso ce l'ascoltiamo per intero in questo Uchi Kuchi Man. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know Bone. I got a mojo too. I got the Johnny Cockeroot. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you, girl, leave me by my hand. Then the world will know that I'm that hoochie man. But you know I'm here. seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said you were born for good luck, and that you see I got $700. Everything's gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I would believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, I spell him child in that rubber thin mane. No B. Oh, child. Why? That mean manish boy. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a natural born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. What that I mean? I spell him a child. In that rubber thin mane. Why? That mean manish boy. I'm a man. I'm a natural born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a natural born lover's man. È difficile individuare un solo brano all'interno di un concerto come questo, che fa buon diritto, lo metto fra i concerti a cui mi sarebbe piaciuto partecipare. Uchi Kuchi Man abbiamo sentito continuare poi in Manish Boy e va avanti così ancora per diverso tempo. Ma noi poco fa abbiamo nominato John Lee Hooker e una sorpresa, non ce lo vogliamo far mancare, e ce lo ascoltiamo. Abbiamo scelto un pezzo che si intitola Night Time Is the Right Time. The night time is the right time. know the night time is the right time just to be the one you love. Come on, you baby, take me by the hand. Oh, the night time, oh, the right time, be the one you love. You know what I'm talking about right now. If my mother hadn't died, yeah, they left her child behind, and my father, he did the same. Come on, yeah, baby, take me by the hand, hold my hand as tight as you can. Oh, the night time, oh, the right time, just to be with the one you love. Il blues, eh sì, è un vero e proprio mantra questo di John Lee Hooker, ipnotico, allucinogeno, ben diversa dalla versione che ne fa di questo stesso brano Ray Charles, che poi ci ascolteremo un'altra volta. Noi andiamo avanti con le memorie di B.B. King mentre ce lo ascoltiamo in sottofondo. Naturalmente Arthur Godfrey era un tipo rilassato, suonava l'ukulele e io gli prestavo fede quando vendeva i suoi prodotti. Parlava e agiva in modo naturale, mi piaceva. Non si presentava come uno di quegli annunciatori fasulli innamorati del suono della propria voce. Avevi la sensazione che Arthur fosse tuo amico, qualcuno nel quale poter avere fiducia. Era una personalità a livello nazionale che tutti sentivano spessissimo alla radio ed era bianco. Ma non faceva differenza se fosse nero, bianco, uomo, donna, ragazzo, adulto. La sua cordialità era qualcosa che ti diceva che ti potevi fidare. Senza farla apposta, aveva dei modi semplici e gioviali che ti conquistavano. Ho fatto menzione di Arthur Godfrey perché dopo che ebbi fatto ritorno a Memphis, influenzò molto l'inizio della mia carriera. Ora vi spiego. Verso la fine del 1948 decisi che era giunta l'ora di lasciarmi alle spalle una volta per tutte la piantagione. Dissi a Marta: baby, io torno a Memphis, ti mando a prendere non appena mi sono sistemato. Lei mi credette perché sapeva che dovevo perlomeno provare a sfondare come musicista. Anche stavolta lasciai Indianola a bordo di un furgone della Levis, aiutando il conducente a caricare e scaricare la merce lungo il percorso. Solo che in questo caso non mi fermai a Memphis, ma proseguì fino oltre il Mississippi, fino a West Memphis, in Arkansas. Avevo in mente un piano e la figura centrale di quel piano era Sonny Boy Williamson. Woman, I sure wish that you could see mine. You've been talking about your woman. E allora ci siamo finiti di ascoltare il concerto di Buddy Waters e adesso ci siamo introdutti nella musica di Sonny Boy Williamson II. Sight to the Blind è la traccia che andiamo ad ascoltare. E continuiamo con questo racconto. Dovete sapere che per anni Sonny Boy II, l'armonicista che avevo sentito suonare al John's Night Spot, era stato titolare di uno spot intitolato, di uno show intitolato King Biscuit Time, che veniva mandato in onda dalla KFFA di Helena, Arkansas. Andava in onda tutti i giorni alle 12, veniva sentito in tutto il sud e la gente l'adorava. Quando a mezzogiorno facevamo la pausa per il pranzo, ci rilassavamo ascoltando Sonny Boy. Lui aveva realizzato brani famosi come Fattening Frogs for Snakes, e questo da solo vale il prezzo del biglietto, un titolo di una canzone così, rane ingrassate per serpenti, significa. Ma niente l'aveva reso altrettanto famoso quanto questo show, sponsorizzato dalla King Biscuit Flour. L'avevo ascoltato per tanto di quel tempo che ormai mi sembrava di conoscere Sonny Boy di persona, e così quando sentì che era passato la KWAM di West Memphis, dove pubblicizzava un ricostituente chiamato Ad Alcohol, decisi immediatamente di andare a trovarlo. Francamente non so dove trovare il coraggio per farlo. Fatto sta che verso le 11 di mattina arrivai alla stazione con in mano la mia chitarra e chiesi se potevo vedere Sonny Boy, che in quel momento si trovava da solo in studio intento a suonare l'armonica. Ragazzi, era grosso, era alto quanto un giocatore di pallacanestro e robusto come un pugile. Aveva una faccia che sembrava dire: non venire qui a seccarmi con delle stronzate. Insomma, aveva l'espressione di uno pronto a caricarti di botte per un non nulla. Sapevo che gli piaceva molto bere e quando mi parlò sentì che aveva una voce molto profonda e roca. Quando mi vide smise di suonare l'armonica, apparentemente seccato per l'interruzione. Io feci un profondo respiro e lo guardai negli occhi, cercando di ricordare tutti quei bei momenti in cui avevo sentito la sua voce alla radio. «Che vuoi?» mi chiese rudemente. «Vorrei cantare una canzone al suo programma». «Ah sì? Sì, signore. Va bene, fammi sentire cosa sai fare». Sì, esattamente. Say just what you please, but I want you to know, people. my woman. Oh, and I don't care what you say. Yes, she'll be my baby. Oh, until my dying day. Cantai Blues at the Sunrise e, come vi sarete accorti, siamo amanti della didascalia. Una canzone di Ivory Joe Hunter piuttosto popolare. The moon is rising, cantai con tutta l'anima, and the sun is sinking low. Sorpresi perfino me stesso, perché non commisi neanche un errore. Presi tutte le note giuste con la chitarra e cantai perfettamente intonato. Evidentemente tutti gli anni passati in chiesa a cantare gospel e agli angoli delle strade a cantare blues erano serviti a qualcosa. Fatto sta che Sonny Boy non mi cacciò pedate dallo studio. Come ti chiami, figliolo? Mi chiese con un impercettibile accenno di dolcezza nella voce. Relay B. King, signore. Va bene, Relay B. King, puoi cantare la tua canzone alla fine del mio programma. Solo, vedi cantarla bene come fatto prima. Ce la feci ed eseguì la canzone alla perfezione. Dopo che ebbi finito, Sonny Boy disse al proprio pubblico: beh, il ragazzo non è male, mi pare. Però voglio sapere cosa ne pensate voi, per cui chiamate se vi è piaciuto. Alla fine dello show arrivò un uomo, un bianco, il quale disse che erano arrivate un bel po' di telefonate di persone alle quali ero piaciuto. Poi bisbigliò qualcosa nell'orecchio di Sonny Boy. Merda, disse lui aggrottando le sopracciglia. Mi sa che ho fatto un casino. Poi si girò verso di me e io pensai di aver combinato qualche pasticcio. Senti un po', Relay B, mi disse. Ho fatto una stronzata. Ho accettato due ingaggi in due posti diversi contemporaneamente. Stasera devo suonare dalle parti di Clarksdale, però dovrei suonare anche qui, a West Memphis, al 16° Street Grill. Ti andrebbe di esibirti al posto mio? Certo, signore. Ero fuori di me dalla contentezza. Prima un passaggio radio, adesso un ingaggio, e tutto nel giro di un'ora. Cerca di Miss Annie, mi disse Sonny Boy, è lei che manda avanti il locale. Il locale consisteva in un paio di stanze, una sul davanti per la musica e il ballo e una sul retro per il gioco d'azzardo. West Memphis era pronta ad accogliermi, e così anche Miss Annie, che mi aveva sentita alla radio e alla quale ero piaciuto. Ho un jukebox qua dentro, disse, ma lo tengo sempre spento, perché alle signore piace di più ballare se c'è un uomo che suona dal vivo. Signore, un uomo che suona dal vivo. Non vedevo l'ora. Avevo ancora indosso la giacca da fatica dell'esercito e non avevo neanche un vestito decente, ma Miss Annie sembrava non importare. Per quanto mi riguardava, l'unica cosa alla quale riuscivo a pensare erano quelle signore alle quali piaceva di più ballare se c'era un uomo che suonava dal vivo. Quando fu l'ora d'apertura cominciarono ad arrivare un sacco di donne. Alcune erano accompagnate, altre no, ma tutte avevano un aspetto talmente arrapante che io cercai di riversare tutta la mia eccitazione sulla chitarra. Chi voleva giocare d'azzardo se ne andò nella stanza sul retro, ma chi era venuto lì per ballare rimase in quella davanti. Per la prima volta in vita mia suonai per far ballare la gente, e la gente ballò, soprattutto quelle famose signore che si mossero in modo talmente sciolto e sensuale da spingermi a suonare come probabilmente mai avevo suonato. Oh certo, magari feci qualche stecca e mi incasinai con una strofa o due, ma ragazzi miei, il ritmo c'era tutto. E tutta quella gente, gente giovane, non più vecchia di me, dimostrò di gradirlo. Mi perdonarono qualunque sbaglio potessi aver commesso. Un paio di volte mi si inclinò la voce, non mi incartai con le dita, ma finché davo a tutta quella gente un buon ritmo sul quale ballare non c'erano problemi. Ben presto la situazione si fece davvero bollente in tutti i sensi. E se Miss Annie mi avesse chiesto, avrei suonato anche per tutta la notte. Invece mi disse: ascolta ragazzo, se ti riesce di andare a qualche stazione radio come fa Sonny Boy e fare il nome del 16° Street Grill, il lavoro è tuo. Ti do $12 a sera, 6 sere a settimana. Sì signora, ci andrò alla radio. Ragazzi, quanto ero felice. Arriva la mattina e mi sveglio, ancora tutto elettrizzato. Voglio sfruttare il momento, voglio andare alla radio, in modo tale da poter nominare il locale di Miss Henny e avere da lei il lavoro che mi ha promesso. Il cugino Bucca mi ha parlato di questa nuova stazione radio, la WDIA, dove trasmettono un sacco di black music, ed è lì che vado. Prendo l'autobus per Memphis, piove e fa freddo, ma io sono determinato a continuare a fare musica alla radio. Devo combinare qualcosa di buono. Scendo alla stazione degli autobus e scopro che la rete della sede della WDIA è a 20 isolati di distanza. Tocca camminare. Piove che Dio la manda, e siccome non ho una custodia per la chitarra, me la stringo al petto tenendone le corde rivolte contro il corpo e il dorso esposto all'umidità. La pioggia aumenta e così il ritmo dei miei passi, finché non mi ritrovo a correre con il fiato corto lungo Union Street, finché finalmente non mi ritrovo davanti all'ingresso della WDIA. In studio, dietro una grande vetrata, c'è un uomo di colore con i capelli tagliati cortissimi e con un paio di occhiali sul naso che sembrano due fondi di bicchiere. Si chiama Nat D. Williams, ma tutti lo chiamano professore perché insegna a scuola. La luce rossa è accesa perché è in onda. Quando ha finito però, quando si accende la luce verde, busso alla vetrata. Lui si alza, mi fa entrare e con voce gioviale mi chiede: cosa posso fare per te, giovanotto? Mi piacerebbe andare in onda, dico, e fare un disco. Ride. Beh, non incidiamo dischi qua e non sono io il responsabile dei programmi. Vado a chiamarti il signor Ferguson. Arriva il signor Ferguson, che è uno dei due proprietari della stazione radio. È bianco, ebreo, basso e pelato. È un'aria molto seria, dà l'impressione di qualcuno immerso in profonde riflessioni. Mi sguarda da capo a piedi e io mi vergogno un po', perché in fondo sono ancora un ragazzo di campagna piuttosto mingherlino. Poi intrattiene con me quello che è il mio primo colloquio di lavoro. Ovviamente sono nervoso. Nel corso degli anni la mia balbuzia è molto migliorata, ma è ancora presente. Se ti faccio andare in onda, dice il signor Ferguson, pensi che sarai troppo nervoso per parlare? Può darsi che tartagli un po', rispondo, ma non più di tanto, non più della media delle persone. Penso che la gente mi capirà. Mi chiede del mio background e io gli dico la verità. Sento che è un uomo onesto e non mi va di dargli un'impressione errata. Gli dico che ho suonato per la strada, ho cantato gospels nelle chiese, ho suonato al 16° Street Grill e ho cantato un pezzo con Sonny Boy alla KWAM. Arriva un'altra persona di nome Don Cairns per sentirmi cantare. È il manager della stazione radio. Io eseguo un pezzo di Louis Jordan, Caldonia. Bravo, mi dice il signor Cairns. Mi sembri sincero, aggiunse il signor Ferguson. E poi il fatto che tu abbia menzionato Sonny Boy mi ha fatto venire un'idea. Sonny Boy ha avuto un sacco di successo facendo la pubblicità per Ad Alcol. Noi abbiamo come sponsor una ditta che produce un ricostituente simile all'Ad Alcol, il Pepticon, che a quanto pare fa sempre bene qualunque cosa tu abbia. Tu hai mai scritto un jingle? No, signore. Ti va di provare? Sì, certo, dico prendendo la chitarra e suonando qualche accordo. Mugolo per un paio di secondi e poi improvvisamente canto Pepticon sure is good, Pepticon sure is good, and you can get it anywhere in your neighborhood. Naddi sorride e fa un cenno d'assenso con il capo. Il signor Ferguson mi guarda come farebbe uno zio fiero del proprio nipote e dice: va bene, dai, proviamo. Ecco come iniziò la mia carriera radiofonica. Quel pomeriggio andai in onda dai 15.30 alle 15.40, solo io, la mia chitarra e il mio piccolo amplificatore Gibson. cantai un paio di volte il jingle della Peptico dicendo alla gente quanto facesse bene. Solo in seguito scoprì che conteneva il 12% di alcol. E Somebody Change Me The Look e Buzz Me Baby di Louis Jordan. Quando parlai cercai di sembrare il più naturale possibile, pensai ad Arthur Godfrey e al modo in cui la sua voce sembrava quella di una persona qualunque, che so, il tuo vicino di casa o l'impiegato che sta alla cassa dei grandi magazzini. Rimasi stupito nel constatare che anche se tartagliavo, la cosa non dava fastidio né a me né a chiunque altro. La balbuzia era parte di me e se io l'accettavo, anche tutti gli altri sembravano accettarla. When I say I'm yours forever, every word I say is true. Buzz me, baby. I'll be waiting for your call. If you forgot the number, come on over, you won't have to call at all. Thank you. stazione radio mi ricordava parecchio Bale Street, nel senso che era un mondo a sé stante, nel bel mezzo del profondo sud nel quale vigeva ancora la segregazione razziale. La WDIA era un posto dove bianchi e neri lavoravano fianco a fianco. Bell Ferguson e il proprio socio John Pepper stavano avviando la prima vera stazione di colore e Nat D era il primo DJ nero attivo a Memphis, fu il nonno di tutti i DJ di colore del sud. Altre stazioni radio assumevano DJ hip come Dewey Phillips, bianchi che parlavano come i neri, ma una radio dove gente di colore parlava ad altra gente di colore nel linguaggio della gente di colore era una novità assoluta. A me piaceva lavorare in un posto dove la gente veniva valutata per quel che valeva. Ovviamente non tutto era perfetto là. I neri non potevano fare i tecnici del suono e non potevano effettivamente mandare in onda i dischi, una cosa ridicola e frustrante che mi faceva infuriare. Ma i DJ di colore assunti dal signor Ferguson, gente come Theo Wade, Hazy Williams, Hot Rod Albert e Rufus Thomas, veniva detto di essere se stessi, e loro lo erano, inaugurando così uno stile che influenzò il modo di fare radio in tutto il paese e forse perfino in tutto il mondo. Intanto io stavo cercando di diventare famoso in tutta Memphis. Certo, avevo il mio piccolo show radiofonico, il mio ingaggio fisso da Miss Annie, ma volevo ancora di più, ecco perché ogni martedì sera partecipavo ai concorsi per dilettanti che si tenevano al Palace Theater di Bill Street, presentati a Rufus Thomas. Si riceveva un dollaro se anche solo vi si era ammessi, se poi vincevi te ne beccavi 5, nonché ti garantivi la partecipazione alla serata della settimana successiva. Io non vinsi mai, ma riuscii ugualmente a prendervi parte ogni settimana. Mi sa che avevo un aspetto tanto male in arnese che Rufus, che aveva un cuore d'oro, non se la sentì mai di respingermi. Questa è in effetti una delle ragioni per le quali ancora oggi io voglio tanto bene. E noi ce l'ascoltiamo, Rufus Thomas, nel suo pezzo forse più conosciuto, Walking the Dog. Walking the dog. come molti degli altri DJ di colore, Rufus Thomas era una figura piuttosto autorevole e aveva alle proprie spalle una storia che andava rispettata. Aveva viaggiato assieme a Rabbit Foot Minstrels in qualità di ballerino ed era un versatile showman. Forse vi ricorderete di lui per i suoi successi degli anni 60 come Do the Funky Chicken e Walking the Dog, ma negli anni 40 gli si esibiva insieme a un socio. Si facevano chiamare Rufus and Bones, i ragazzi miei. Erano capaci di far saltare via il tetto della sala con le loro barzellette, le loro canzoni e i loro balletti. Rufus era pressoché perfetto nelle imitazioni di Louis Armstrong, Fats Waller, Gethmo Moore, un altro grande bluesman e personaggio caratteristico di Bay Street. Insomma, era un entertainment, nel vero senso della parola. Mi piacevano molto anche il suo arguto senso dell'umorismo e la sua saggezza. Diceva spesso: se un bianco potesse diventare nero e passare un solo sabato sera a Bay Street, non vorrebbe mai più ridiventare bianco. Una vita dopo, in occasione di una cena durante la quale tutti mi definivano una stella, Rufus disse di me: B non è una stella, è la luna. Comunque molta gente andava ad assistere all'ora del dilettante presentata da Rufus Thomas, non certo per sentire i dilettanti allo sbaraglio, ma l'attrazione fissa, la big band del batterista Old Jackson. Anni dopo suo figlio Old Jackson Jr. avrebbe suonato con Booker T. La band rappresentava un'ulteriore dimostrazione dell'elevata qualità della musica che si suonava a Memphis. Ascoltandola dal backstage, come feci io un sacco di volte, avresti potuto giurare che fosse quella di Basie. Aveva un cantante di nome Dick Cool che idolatrava Billy Eckstein. Quando cantava Jelly Jelly eri tu a trasformarti in gelatina. Marta si trasferì a Memphis soltanto una settimana dopo che ebbi ottenuto il lavoro alla radio. Ma questa è un'altra storia e forse ve la racconteremo la prossima volta. Minuti dopo la mezzanotte, quindi 25 o'clock, Radio Onda Rossa. E credo che ci siamo in qualche maniera spiegati questa sera, questa notte. Siamo tenuti il cappello in testa perché comunque qua dentro l'aria è fumosa. Come deve essere l'atmosfera? Ascoltando e ricordando le storie come quella di B.B. King. con le grandi storie che si dipanano lentamente, appunto come un blues. Quando ci diamo appuntamento, insomma, chissà, ma laconico. Mezzanotte e 10 minuti, noi invece un appuntamento sicuro ce lo diamo. Quello a mercoledì prossimo, che dovrebbe essere 22-23-24 di novembre. Vi annunciamo che ormai è in procinto di uscire la Scarceranda 2017, anche la Scarceranda di quest'anno, e con largo anticipo vi diamo appuntamento al Nido di Vespe, allo spazio sociale Nido di Vespe, il 3 dicembre prossimo sabato alle 19. Nido di Vespe a Via dei Ciceri 131. Quindi presentazione di Scarceranda e serata a sostegno di Ragno Onda Rossa. Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno. Cena buffet. Concerto con El Spite, che fanno folk punk. E Reverend Knopf, che fanno, guarda caso, blues. Ovviamente il saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, obblighi di firma, decreti amministrativi che ci costringono comunque a soggiorni coatti, e infine i famigerati CIE e tutti gli altri centri di reclusione per migranti che hanno un sacco di nomi. Hanno nomi diversi, ma hanno un senso ben preciso, quello cioè di tenere relegati, reclusi dentro dei lager, le persone non facilmente assimilabili, riassumibili, contenibili. Noi vi salutiamo a tutte e a tutte e ci risentiamo mercoledì prossimo. Dai! E buonanotte. Thank you very much. Thank you.